Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Roma, 10 luglio 1991. I preparativi per la festa a Villa Mattei iniziano già di primo mattino. La contessa Alberica Filo della Torre e suo marito, il costruttore Pietro Mattei, festeggiano in serata il decimo anniversario di nozze. Nelle stanze e nel giardino della villa alloggiata, prestigioso quartiere residenziale a nord di Roma, sono al lavoro quattro operai e le due domestiche filippine di famiglia. Le 9 della mattina, il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Si trova nella sua stanza, chiusa a chiave e aperta con un passepartout. Vestita solo di un completo intimo, Alberica Filo della Torre giace a terra con un lenzuolo stretto al collo. È stata più volte colpita alla testa con uno zoccolo di legno, prima di venire strangolata. Nessuno, in casa Mattei, ha visto né sentito niente. La moquette verde della camera da letto della contessa è macchiata di sangue. Alberica Filo della Torre giace tra il letto e il guardaroba. Al suo fianco tre pillole di medicinali. La donna porta al polso un orologio, ma da un primo sopralluogo emerge che alcuni suoi gioielli, una collana, un anello e un paio di orecchini ritirati dalla cassetta di sicurezza la sera prima, sono stati rubati. Il magistrato incaricato dell'inchiesta è Cesare Martellino. Emergono le ipotesi di reato contro ignoti: tentativo di violenza carnale, omicidio a scopo di rapina, delitto passionale. Il PM giunge a casa Mattei solo alle 17. A quell'ora la scena del crimine è già stata attraversata da decine di persone. Qualcosa nella procedura non ha funzionato. Le impronte sulla scena del delitto sono confuse, forse compromesse. Il magistrato Cesare Martellino racconta così le sue impressioni sulla scena del delitto. Proprio nella primissima fase, se possiamo dire che qualcosa non ha funzionato, forse non ha funzionato il primo intervento delle forze dell'ordine, perché nella stanza del delitto, quando sono arrivato io, chiamato come magistrato di turno, ho trovato dentro parecchie persone, quindi questo un po' può avere reso difficoltoso il reperimento di impronte. La scena del crimine dovrebbe essere sempre isolata, nessuno dovrebbe poterci entrare salvo i feriti, i medici e via. Invece purtroppo vennero chiamati prima i vigilantes del comprensorio dell'Oggiata, poi venne chiamata la stazione dei carabinieri, poi venne chiamata la compagnia dei carabinieri, poi arrivò il reparto operativo e alla fine sono arrivato io, quindi c'erano un po' troppe persone, però onestamente devo dire che questo non ha pregiudicato le indagini. Al momento della scoperta del cadavere, Pietro Mattei ha già lasciato la villa per recarsi al lavoro. Così molti anni dopo racconterà ciò che provò quel giorno al settimanale Mixer della Rai, condotto da Gianni Minoli. Sono uscito presto perché la sera appunto c'era qualche amico, non era mai qualche amico, perché non era la ricorrenza dei 10 anni di matrimonio. E io mi alzai, feci la mia doccia, gli dissi un bacino, la salutai e gli dissi: guarda, non torno tardi questa sera. Poi scesi giù e mi raccolsi che mi ero dimenticato il telefonino. Allora ritornai su, aprì la porta e mi fece: il telefonino! Come dire, come solito, il telefonino. E andai via e gli detti un bacino, me lo ricordo ancora. E dissi: dormi. E scesi la macchina e arrivai in ufficio. L'ufficio era andato piuttosto presto la mattina perché volevo disbrigare immediatamente delle cose. Mi ricordo stavo telefonando con una società di Milano quando entrò la segretaria e mi disse: guarda, c'è una telefonata urgente. In modo io parlavo con la SIA di Milano, perciò me lo ricordo ancora. Dice: c'è l'ingegner Bernardi al telefono. E io dissi: beh, Bernardi va bene, me lo passi. Allora Silvano Bernardi mi disse: Pietro Alberica sta poco bene, vai a casa. Dissi, ma io sono molto impegnato. Dissi, Pietro, la vedova sta poco bene, corri a casa. E io non lasciai tutto quanto, perché mi resi conto immediatamente, no? Cioè, uno pensava poteva avere una rivalità. Che non andava. No, una telefonata così dal di fuori, da una persona estranea, non da casa, no? Un'interruzione con la segretaria. Presi molto in macchina. Monta in macchina, mi ricordo, una strada che non faccio più. Dall'Eur, passando da questa parte del lunare, non lo faccio più, mi rifiuto, lo faccio sempre, anche se sono, faccio l'altro giro, perché sono stati, ricordi momenti tragici. Telefonavo e mi dissero che appunto Alberica si era sentita male. Poi mi dissero che era svenuta, erano due minuti, tre minuti che era svenuta. E allora mi resi conto che c'era qualcosa che andava, molti si... Infatti mi ricordo, un certo momento mi sembra che urlai, dissi, ma allora è morta. Non... Arrivai a casa, e arrivai alloggiata e vidi che c'erano i carabinieri. E io entrai dentro e mi sembra che era caduta, aveva avuto un trauma nella vasca da bagno. Non le dissero subito la verità? No, non me l'hanno detto la verità. Infatti a miei figli gli ho detto che la mamma era caduta nella vasca da bagno, ma figli mi guardò, mi guardò, e così parlando mi ha detto, ma perché c'hai? E ha detto, perché me questa è lui, mi avevano riferito che io era caduta nella vasca da bagno, che non la potevo vedere perché essendo una morte traumatica. Ah, ecco, lei non bisognava. No, io non so che cosa. Invece il bambino era entrato, Manfredi. Me lo hanno detto, io non l'ho mai chiesto. Non l'ho mai chiesto. Sì, mi hanno raccontato che lui ha avvolto la cosa della mamma, io non ho mai avuto la forza di affrontarlo. Non mi sembra giusto. Alle 8:30 Pietro Mattei varca il cancello d'ingresso dell'oggiata. Sono presenti però, oltre ai due figli piccoli Manfredi e Domitilla, e a un loro amichetto, la babysitter inglese, le due domestiche filippine e i quattro operai. Tutti vengono ascoltati dagli inquirenti. Vengono ritenuti estranei ai fatti. Così, davanti ai magistrati, hanno parlato la babysitter inglese e una delle due domestiche filippine che erano presenti all'oggiata il 10 luglio 1991. La contessa è scesa in cucina verso le 8:30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non lo poteva. Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione, più o meno erano le 9:10. I sospetti allora cadono su Roberto Iacono e Manuel Winston. Il primo, 30 anni e qualche precedente penale, è figlio di Franca Senafa, insegnante di sostegno dei figli della contessa. Reduce da un esaurimento nervoso, Iacono è autorizzato a utilizzare la piscina della villa. Winston, filippino, è un ex domestico di casa Mattei, licenziato qualche mese prima perché inaffidabile. Sono scagionati dall'esame del DNA, effettuato su alcune tracce di sangue trovate sui loro pantaloni. Così parla Roberto Iacono davanti ai magistrati. Mi sono svegliato alle 9:30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa. Le indagini si estendono allora alle persone vicino alla famiglia. Viene ascoltato Michele Finocchi, all'epoca dei fatti capo del gabinetto del SISDE. Intimo amico della contessa, Finocchi ha accesso al luogo del delitto, come spiega a Giovanni Miloli in una puntata del programma televisivo Mixer. È entrato nella stanza dove era stata uccisa Alberica. Questo è successo molto dopo il mio arrivo, allorché era stato detto al dottor Mattei che avrebbero sigillato la camera. E lui, che aveva il guardaroba a fianco a questa camera, e disse, ma io domani come mi vesto? E mi pregò di prendere un vestito. Naturalmente, data la delicatezza della situazione, mi sono rivolto all'ufficiale dei carabinieri presente, il quale ha chiesto l'autorizzazione al magistrato e, accompagnato da due investigatori, sono andato nel guardaroba a ritirare un vestito. E che cosa ho visto? Passando per la camera da letto ho visto il corpo di Alberica, ma insomma devo dire che ho cercato di tirare dritto. Cioè si è trattenuto poco nella stanza? No, non mi sono trattenuto affatto. Nel 1994 nuove testimonianze portano gli inquirenti sulla pista finanziaria. Le dichiarazioni di Emilia Parisi Alfon, legata per qualche tempo a Pietro Mattei da una relazione sentimentale dopo la morte di Alberica Filo della Torre, inducono i magistrati ad indagare su tre conti bancari che la contessa e suo marito avevano in alcuni istituti di credito svizzeri e sui quali sarebbero stati versati 12 miliardi di lire. Mesi dopo, dalla Svizzera, viene estradato Michele Finocchi, imputato insieme con altri sei ex funzionari del SISDE nel processo sui fondi neri del servizio segreto civile. Il PM Cesare Martellino ascolta Michele Finocchi in qualità di persona informata sui fatti, ma l'ex 007 afferma di non aver nulla da dichiarare sui conti della famiglia Mattei. Contemporaneamente, il ritrovamento di documenti riservati relativi all'inchiesta sull'omicidio dell'Olgiata in casa di Roland Wöhler, l'uomo che accusò Federico Valle del delitto di Via Poma del 7 agosto 1990, fa pensare che possa esserci qualche legame tra le due vicende, ma anche questa ipotesi, dopo alcuni accertamenti, viene scartata. Nel febbraio 1995 si apre un altro filone d'inchiesta. I magistrati ascoltano l'imprenditore asiatico Franklin Jung, vicino di casa e amico dei Mattei. Al centro degli interrogatori, i suoi rapporti di lavoro con il marito della contessa. Ma anche Jung, dopo i primi sospetti, viene ritenuto estraneo ai fatti. Tra poco dopo la pausa, giallo e nero sul delitto dell'Olgiata. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 6 marzo 2007, 16 anni dopo. L'inchiesta sul delitto dell'Olgiata viene riaperta. La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i nomi di Roberto Iacono e Manuel Winston, due sospettati già coinvolti, ma successivamente prosciolti nelle indagini. Il GUP Cecilia Demma accoglie formalmente la richiesta di riaprire il caso in seguito al parere positivo del reparto scientifico dei carabinieri, che ha stabilito che è ancora possibile analizzare alcuni indumenti ritrovati sulla scena del delitto. Oltre ai pantaloni di Iacono e di Manuel, saranno riesaminati le tracce biologiche trovate sulle lenzuola del letto della contessa Filo della Torre, lo zoccolo con il quale la donna fu colpita alla testa dopo essere stata strangolata e un Rolex d'oro, fermo all'ora del delitto, indossato al polso dalla donna. L'orologio Rolex d'oro non è stato mai sottoposto ad esami per la rilevazione di eventuali tracce di sangue da cui ricavare un DNA. Parte da qui l'ultima pista di un delitto che sembra quasi perfetto, un omicidio sul quale è difficile fare luce, perché manca un movente, come dichiara il pubblico ministero Cesare Martellino. Le indagini hanno riguardato tutti i possibili aspetti, sia della vita della vittima, sia degli amici, sia dei possibili interessi. Abbiamo cercato in tutte le direzioni, non è che le indagini si sono arenate, non si è arrivati all'individuazione del colpevole, e questo principalmente perché non è stato trovato un movente. Nel momento in cui si trova il movente, normalmente si va in discesa nella ricerca degli omicidi. In questo caso, non essendo stato trovato un movente, si doveva indagare un po' come si fa sempre nella vita della persona, nelle amicizie, negli interessi, negli affari. E tutto questo è stato fatto. Il fatto che non si sia arrivato alla scoperta del colpevole non è che le indagini si siano insabbiate. Le indagini, se non emergono elementi nuovi, per adesso non è possibile farne altre, sono state fatte tutte, sono state esplorate a 360 gradi. Questa alla fine è una convinzione che si barricando in me, cioè che non essendoci nessun collegamento deve essere per forza un delitto occasionale, oppure veramente un delitto perfetto, ma perfetto perfetto senza alcun errore, che mi pare difficile. Alcuni interrogativi sulle prime ore delle indagini vengono posti da Giuseppe Di Piazza, allora capocronista del Messaggero. Secondo me l'indagine sul delitto di Roggiata è viziato da una sorta di buco iniziale. Si è all'inizio consentito un rimescolamento troppo grosso della scena del delitto. Troppe persone sono entrate nella stanza, non è stato congelato, la scena non è stata congelata. E mi ricordo poi nel processo che io subì in seguito per diffamazione che la storia delle impronte digitali non fu mai chiarita, scomparvero tutte, non c'erano impronte digitali utili in una camera da letto e questo onestamente mi è sembrato sempre un po' stravagante. Io credo che in questo delitto, come in quasi tutti i delitti, ci sono tante persone che non vogliono la verità, innanzitutto l'assassino e tutti quelli che lo hanno aiutato. C'è molto interesse a non sapere le cose, questo sì, e ci sono molti interessati a che questo non si sappia. Certo che i carabinieri si mossero in maniera convulsa all'inizio, ripeto, in una scena del delitto alterata, in cui le impronte erano state presumibilmente cancellate, in cui tutti gli oggetti erano fuori posto, in cui in tanti avevano toccato il cadavere. Onestamente lavorare bene in quell'ambiente, con l'ombra poi inevitabile dei servizi segreti sulla vicenda, visto il ruolo che aveva in quel momento il dottor Finocchi, era il numero due del SISDE, ricordiamocelo, ed è l'uomo che, secondo i carabinieri, aveva una relazione sentimentale stabile con la vittima, con l'Alberica Filo della Torre, si può capire che certo non era facile indagare a Loggiata, e onestamente indagarono forse male. Poi c'è Pietro Mattei, costruttore, marito della contessa Alberica Filo della Torre. Lui ancora oggi cerca una verità plausibile sulla morte della moglie. Sto cercando di difendere la memoria di mia moglie. Credo che fosse doveroso da parte mia dire che Alberica era una moglie, una madre esemplare, una moglie affettuosissima. E la gente deve sapere che era una persona per bene in tutti. Scusi, No, non è che si sa, è la rabbia questa, è la rabbia delle offese che gli hanno fatto, di tutto questo lerciume che hanno buttato addosso per una cosa. Infine ci sono le voci dell'Olgiata, sono quelle del marito della contessa Alberica Filo della Torre, Pietro Mattei, della babysitter inglese, della domestica filippina, del dottor Finocchi, del SISDE, della madre, di un'amica della famiglia, di Roberto Iacono, del domestico cinese. Montate così, insieme, una dopo l'altra, sembrano proprio le scene di un film giallo, non ancora chiarito. Spero e confido che colui che ha tolto la vita a mia moglie venga soldato alla giustizia. Prima per mia moglie, per i miei bambini e per me. Quella mattina non si entrava in casa. La contessa è scesa in cucina verso le 8:30 e dopo un po' ho sentito piangere Dominica perché la mamma aveva detto il vero. Sono Finocchi, sono un amico della famiglia Mattei ormai da molti anni e ho vissuto questa vicenda praticamente sin dalle origini, da quando appunto è accaduta la disgrazia. Mi sono svegliato alle 9:30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa. Non so se chiamarlo destino, non so se chiamarlo come chiamarlo, ma certo è stata una di quelle disgrazie che più grossa, nulla non la poteva immaginare più grossa di questa. Ci accompagna ogni giorno. No, poi soprattutto per me poi pure in particolare, che avevamo fatto tutto un programma, tutto un progetto di stare insieme, insomma. È stato terribile. Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione. Più o meno erano le 9:10. Io si chiama Frankie Young, esempio un Yip Meng, nome cinese, sia di contessa Domidira, molto amica di mia figlia, che quando loro crescono insieme, infatti noi conosci da nostro figlio. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.